2024 2024 di Enrico Pagliarini. Sono le 15:33 minuti, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro numero verde per chiamarci in diretta è 824 0024. Vi coinvolgeremo soprattutto nella seconda parte, come succede spesso, ma potete cominciare a chiamarci anche da questo momento, per parlare soprattutto di motori di ricerca. Ci sono tantissime cose da dire sui motori di ricerca, perché ogni settimana ci sono delle novità. Ne parleremo con due esperti che vi farò conoscere tra poco. Però la prima cosa che voglio dirvi oggi si chiama Società Semplificata Responsabilità Limitata. È una novità che è stata lanciata dal governo in questo pacchetto cosiddetto liberalizzazioni, pro concorrenza, eccetera, eccetera, perché basterà un euro per i giovani sotto i 35 anni per aprire una nuova società. Allora, sicuramente non basta questo, però è una buona notizia. Allora vogliamo iniziare in questo modo per le tante start-up che sono nate, ma soprattutto quelle che nasceranno, stanno nascendo, perché un aspetto poco conosciuto del settore innovazione in Italia, che esiste, è che ci sono moltissime start-up pronte a nascere. Quindi questa è una buona notizia per questi giovani. Purtroppo la quantità di denaro pronta a finanziarle è ancora limitata. Ci sono statistiche anche recenti che dimostrano che la quantità di venture capitalist in Italia è ancora limitata, però sicuramente questo è un piccolo passo per favorire queste aziende. E tra l'altro il settore della tecnologia, dell'information technology, dell'ICT in generale, è un settore che, come hanno evidenziato le trimestrali di pochi giorni fa a Wall Street, funziona anche in tempi di crisi. È uno dei pochi settori che funziona molto bene. Avrete visto ad esempio le azioni di Google, che tra l'altro è uno degli argomenti di cui parleremo oggi, che sono scese, e uno potrebbe dire: allora non vanno così bene le cose. No, in realtà gli analisti si aspettavano una crescita maggiore, ma se uno va a vedere tutti i principali dati relativi al funzionamento del gigante Google, sono tutti più 20, più 30, più 10, più 15, eccetera eccetera. Tra poco parleremo di Mega Video e anche di Wi-Fi a Milano, perché tutto il progetto Wi-Fi sta partendo. Adesso invece parliamo di indirizzi internet. Avrete certamente sentito parlare della famosa fine degli indirizzi internet, un allarme che ogni tanto viene rilanciato perché si avvicina sempre più il momento in cui finiranno le combinazioni di numeri con cui ogni macchina collegata alla rete internet viene identificata. È chiaro che se finiscono i numeri internet non cresce più, non possono nascere nuovi siti internet, non possono essere collegati nuovi server, nuovi computer, eccetera eccetera. È un po' come se finissero le combinazioni delle targhe, non potremo più immatricolare una nuova automobile, o se finissero i numeri di telefono non potremo più sottoscrivere una nuova SIM. Ma questo naturalmente non succede, perché c'è qualcuno che pensa al futuro. Allora, anche in questo caso, per evitare che questo non accada su internet, bisogna pensare ad un sistema di numerazione con combinazioni più numerose. Naturalmente sono molti anni che ci si sta pensando, e dall'attuale protocollo chiamato IPv4 si passerà gradualmente ad un nuovo protocollo che si chiama IPv6, IP version 6. Allora, questa settimana, e partiamo da una notizia di questa settimana, la Internet Society ha annunciato che il 6 giugno sarà la data di lancio di questo nuovo protocollo. Facebook, Google, Microsoft, Bing e Yahoo saranno le prime destinazioni della rete a garantire il supporto a questo nuovo linguaggio. Allora, per parlare di questa novità è con noi Valeria Rossi, che è direttore generale del MIX di Milano. Benvenuta a 2024. Grazie Enrico. Diciamo subito che il MIX è uno snodo fondamentale della rete internet, perché voi che cosa fate sostanzialmente? Siete un po' in mezzo a tutti gli operatori internet. Sì, esatto, noi siamo un po' come un hub del traffico internet italiano, essenzialmente. Un hub, puoi immaginare un hub come quello dell'aeroporto, dove ci sono dei passeggeri in transito, nella zona di transito, passeggeri che provengono da una località e diretti verso un'altra, che devono cambiare volo. Ecco, quello che fa MIX è esattamente questo, cioè una mail che viene generata, per esempio, da un cliente di Alice e destinata verso un cliente di Fastweb, può passare attraverso il MIX. In tutto il mondo ci sono degli exchange, cioè dei punti, esatto, di scambio della rete internet. Esatto. Quindi voi gestite un po' il traffico. Gestiamo un po' il traffico, esatto. E potremmo dire che quasi tutto il traffico internet italiano transita sui vostri server? No. No, non possiamo dire questo. Parte. Una buona parte transita sulle nostre apparecchiature di rete. Sì, diciamo che se un cliente di Telecom Italia, di Alice, va direttamente su un sito americano, probabilmente non transita, non da voi. Da noi, esatto. Però tutto quello che viene scambiato in Italia passa da noi. Moltissima parte di quello che viene scambiato, esatto, in Italia passa da noi. Quindi voi vedete molto di quello che succede sulla rete internet. Sì, abbiamo una visibilità abbastanza buona. Giusto per capire, in termini di traffico, parliamo di non gigabit, di più. Parliamo di 100 gigabit di traffico su mix, cioè 100 miliardi di bit al secondo che transitano sulle nostre apparecchiature. Abbiamo festeggiato da poco i 100 più 100, cioè 100 soggetti che sono 100 operatori collegati a Mix con 100 gigabit di traffico al secondo. Quindi insomma, molto traffico. Molto. Quindi voi siete coinvolti, interessati, obbligatoriamente coinvolti in questo passaggio. Diciamolo, anche se poi non perderemo troppo tempo sulle sigle, sugli acronimi, però stiamo parlando di IPv4, che è un linguaggio, una numerazione che oggi viene utilizzata, ad un nuovo protocollo che si chiama IPv6. Sostanzialmente stiamo parlando di indirizzi internet che servono a chi? Cioè questi indirizzi vengono assegnati a cosa? Vengono assegnati a tutti i device che sono collegati, a tutte le apparecchiature che sono collegate ad internet. Allora, quando per esempio tu vuoi collegarti al sito del Sole 24 Ore, hai un nome, www.sole24ore.it, ma la rete, cioè il protocollo che fa passare i pacchetti, non riconosce i nomi, riconosce i numeri. Questi numeri sono indirizzi. Gli indirizzi attualmente in uso sono gli indirizzi IPv4, che quasi tutti conoscono, che sono formati da 4 gruppi di 8 bit, Stanno finendo perché tieni conto, dunque, ci sono circa in IPv4 circa 4 miliardi di indirizzi. Sì. Quando nel 1970 fu progettata la rete, pensavano che fossero tantissimi. In realtà non è andata così. Un po', devo dire, sono stati anche all'inizio allocati, insomma, in modo un po' non troppo preciso. Poi sono state strette un po' le maglie, ma ormai siamo agli sgoccioli. Allora, diciamo che questi indirizzi vengono dati a delle macchine, quindi, esatto, perché i siti internet poi di fatto sono macchine, ci sono i server, computer, ma gli indirizzi di IP ce li ho anche io a casa quando mi collego a internet, giusto? Sì, ce li hai anche tu a casa quando ti colleghi ad internet, e dipende dal tuo operatore. Ogni operatore dà ai suoi clienti finali degli indirizzi IP. Quindi, in pratica, se vuoi ti racconto un attimo come funziona l'indirizzamento IP. Sì, perché è interessante, perché c'è una, non so se è una società o un'organizzazione, insomma qualcuno che li decide a chi vanno questi indirizzi internet. Certo, provate a immaginare, qua si tratta che ogni macchina nel mondo collegata ad internet ha un indirizzo IP univoco. Quindi ci vuole un coordinamento a livello mondiale molto ampio. Che è come un numero di telefono, poi alla fine. Che è come un numero di telefono, esatto. Esiste, diciamo che tutto parte da IANA negli Stati Uniti, che è l'Internet Assigned Numbers Authority, che però non dà direttamente al cliente finale un indirizzo IP per tutto il mondo. Si affida a dei registri regionali. Ce ne sono 5 nel mondo: Nord America, Sud America, Asia Pacifico, Africa ed Europa. In Europa il registro si chiama RIPE ed è ad Amsterdam, e RIPE assegna blocchi di indirizzi IP ai vari operatori, i quali poi, quindi come la Telecom per esempio, i quali poi lo assegnano all'utente finale. Sì, quando io mi collego in internet, appunto, l'operatore mi assegna un indirizzo IP. Esatto. Allora, tutto questo per dire che l'allarme che ogni tanto viene lanciato, cioè attenzione che gli indirizzi IP stanno terminando, quindi non ci si potrà più collegare a internet, o comunque non potranno più nascere nuovi siti internet, non potranno essere più collegate nuove macchine, è vero, cioè, o comincia ad essere vero. È vero ed è anche abbastanza imminente, perché nel febbraio dell'anno scorso, del 2011, IANA annunciò che stava allocando ai registri, questi 5 registri, gli ultimi blocchi grandi di indirizzi IP, dopodiché aveva esaurito lo spazio di indirizzi IPv4. Quindi le combinazioni sono finite. Sono finite. A questo punto i vari registri stanno assegnando gli ultimi indirizzi che hanno. Le previsioni sono, per esempio, per l'Europa, le ultime di fine anno scorso erano giugno di quest'anno. A giugno di quest'anno al massimo gli indirizzi PV4 in Europa saranno terminati, quindi bisogna passare ad indirizzi d'altro tipo. Senti, tutto ciò è un problema che riguarda solo gli operatori della rete, quindi nel caso vostro il mix, le varie telecom in giro per l'Europa, o riguarda anche i consumatori finali? No, non riguarda i consumatori finali in modo diretto, nel senso che il consumatore finale non ha la percezione di qual è l'indirizzo che viene assegnato alla propria macchina, proprio perché non lo richiede direttamente, gli viene dato dal fornitore. Diciamo, sì. Esatto, lo prende in automatico. Però riguarda gli operatori, che vuol dire riguarda la crescita degli operatori. Crescita vuol dire numerosità di nuovi clienti, oppure numerosità di nuovi operatori. La necessità di poter accedere con indirizzi PV6 alla rete sarà fondamentale da qui a breve, in quanto per esempio un nuovo content provider dovesse nascere quando termineranno gli indirizzi PV4, sarà un content provider, non so, la Google, una nuova Google per intenderci, solamente nei PV6. Quindi è necessario essere in grado di poter accedere anche a delle realtà solo che utilizzeranno solo il nuovo tipo di indirizzi. Questa data che è stata annunciata del 6 di giugno per iniziare questo passaggio coinvolge sostanzialmente alcuni operatori, grandi nomi, Google, Yahoo, Facebook, insomma i soliti americani. In Italia ci stiamo preparando? Stiamo facendo qualche cosa o lentamente? Cioè non ne abbiamo bisogno così come ne hanno bisogno gli americani? No, ne abbiamo bisogno tutti. Tanto come gli americani. È chiaro che il motivo per cui partano i grandi nomi, cioè quelli più gettonati, quelli più utilizzati oggettivamente in internet, è molto chiaro, è un messaggio molto forte. Noi partiamo, è ovvio che non dismettono il vecchio. Sì, certo. Quindi non è come il digitale terrestre, stiamo parlando di due cose effettivamente diverse, però per farci capire, non è come il digitale terrestre che si spengono le vecchie frequenze e rimangono solo le digitali. Assolutamente qua. No, i due protocolli continueranno a esistere probabilmente per sempre, forse per 10 anni, 15, non lo sappiamo, però questo non succederà. Succederà che appunto finalmente Facebook, Google eccetera daranno questo messaggio molto forte e apriranno in IPv6 nativo sulle loro piattaforme. Questo vuol dire che loro stanno spingendo internet ad attrezzarsi, perché finora, per quanto il protocollo IPv6 sia stato standardizzato già una decina di anni fa, ancora siamo molto indietro, il traffico, le quantità di traffico lo dimostrano, insomma. Potremmo dire che ci stiamo così preparando per la rete internet del futuro, milioni di miliardi di strumenti, di cose connesse alla rete. Sì, e tieni conto che PV6, a differenza di PV4, ti dà uno spazio di indirizzi che è di circa 340 miliardi di miliardi, 4 volte. Quindi dovremmo starci dentro. Esatto. Bene, io ringrazio Valeria Rossi per essere stata con noi, direttore generale del Mix di Milano. A presto, buon lavoro. Grazie. Abbiamo fatto un po' di chiarezza, quindi quando leggete, perché ogni tanto capita che qualcuno scriva e riporti questo allarme, stanno finendo gli indirizzi internet, sappiate che ci si sta preparando e quindi non accadrà nulla di drammatico. La viabilità, ci risentiamo tra un minuto. 2024. Vi ricordo che nella seconda parte parleremo di motori di ricerca. Il nostro numero verde è 824 0024, potete contattarci anche via SMS 349 238 6666. Alcuni definiscono oramai l'SMS una cosa un po' antiquata, allora c'è Facebook, potete trovare la nostra pagina scrivendo e cercando 2024, magari fate anche I like. Il nostro programma sarà disponibile anche attraverso il sistema podcast di Radio 24, quindi avete la possibilità di riascoltare la trasmissione di 2024 quando volete, scaricando il file MP3. Da alcuni anni si parla di una grande rete Wi-Fi gratuita a Milano. La prima intervista per parlare di questo l'abbiamo fatta nell'aprile del 2007. Allora, un primo tassello di questa rete è stato attivato e dal 18 gennaio ci sono 50 hotspot in sedi comunali di vario tipo accessibili gratuitamente. Ci spiega di che cosa stiamo parlando Davide Corritore, che è direttore generale del Comune di Milano. Tutti i luoghi pubblici, musei, biblioteche, anagrafi, sono dotate di hotspot, cioè di accesso alla rete, davamo l'accesso free internet, internet gratuito per un'ora e mezza al giorno. Abbiamo deciso da due giorni ed è già operativa l'estensione a tutta la giornata, quindi in qualunque luogo pubblico, sono diverse decine, è possibile accedere alla rete all'interno, al chiuso, indoor, come si vuol dire. Quindi lei ci dice che se una persona va in una biblioteca può star collegata 5, 6, 7 ore a internet? Per tutto il tempo di apertura, quanto vuole. Oltre a questo, chiamiamolo pur limite, ma si fa per dire, perché quando è chiuso l'edificio pubblico è chiusa anche la connessione di conseguenza, ma ci sono altri limiti di diverso tipo? Allo stato attuale c'è limiti di tempo, ma stiamo lavorando sulla grande rete futura che naturalmente porterà con sé anche alcune limitazioni che sono ovviamente una grande cura rispetto a, per esempio, materiali pornografici, accesso a particolari siti, cioè staremo molto attenti, diciamo, ad evitare che ci possa essere un abuso, diciamo, della nostra rete, per cui insomma questo farà parte dei ragionamenti nella logica dell'interesse pubblico. Non saranno limiti però di utilizzo della rete per le funzioni più importanti. Ci dà un'idea di quanto sarà estesa questa rete che dovrebbe, ma direi che a questo punto ci siamo, quindi il condizionale diventa meno forte, dovrebbe entrare in funzione tutta entro il 2012? Dunque la Giunta ha già deliberato e stanziato e siamo già al lavoro per preparare bandi, interventi, alleanze e quant'altro. Dunque il piano delle prime, degli hotspot pubblici, quindi luoghi, piazze, siti di connessione alla rete sono 1000-1200 e sono stati mappati in tutta la città, stando attenti ai luoghi in cui c'è una maggiore domanda possibile, diciamo affluenza, passaggio in tutte le varie tipologie dei cittadini e di utilizzatori della città. 1200 pubblici. Ma la rete sarà federata e consentirà a tutte le reti wireless senza fili oggi esistenti in città di federarsi con la nostra, il che vorrà dire con un unico codice di autenticazione si potrà accedere a tutte le reti wireless della città e in prospettiva anche chi vorrà aggiungere ulteriori reti potrà diciamo aggiungere la nostra. Un'unica piattaforma e questo consentirà di avere migliaia e migliaia di siti connessi. Le faccio un'ultima domanda che non è di carattere tecnico-tecnologico, perché dare internet gratis a cittadini, turisti, persone che lavorano, eccetera, eccetera? Perché internet nel futuro è come l'acqua, si deve bere per poter vivere, e il 30% dei milanesi non accede alla rete, abbiamo intenzione di creare una scossa digitale, ridurre il digital divide, infatti questa rete infrastruttura digitale partirà innanzitutto dalle aree non decentrate per convergere verso la città. Per il turismo è una fonte di domanda, vengono selezionati addirittura gli alberghi, i luoghi, in funzione dell'esistenza o meno dell'accesso alla rete internet. E poi perché vogliamo lanciare molti servizi digitali civici che potranno essere utilizzati con tutte le nuove apparecchiature di smartphone che sono in grave diffusione. Quindi insomma è proprio a che vedere con la democrazia dell'informazione, l'accesso, servizi, ma anche molto crescita economica, perché ormai tutti sanno che dove c'è rete cresce di più il PIL. Certo, io sono d'accordo con lei, uno potrebbe ribattere, beh l'acqua però si paga, quindi qua stiamo parlando di una cosa ancora più importante dell'acqua, quasi quasi. Beh insomma l'acqua si paga, però i primi popoli si fermarono sui fiumi e bevevano gratuitamente dai fiumi, un po' depurandole, per cui insomma la storia avanza e quindi voglio dire allo statutore c'è il pubblico che investe per creare la scossa che vuol dire consentire a tanti di entrare, poi futuro vedremo, perché è possibile che si potrà immaginare che alcuni servizi siano a pagamento, perché sono ad elevato valore aggiunto e considerato consentirà tutto ciò di finanziare l'accesso gratuito alle funzioni più essenziali. Digital News. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana, vi annuncio anche che presto faremo una puntata dedicata al Wi-Fi cittadino con un po' di ospiti, anche alcune esperienze in giro per l'Italia e un po' nel mondo. Notizie della settimana, la Apple ha annunciato una nuova applicazione gratuita che permette agli editori di realizzare libri di testo per la scuola multimediali che si possono vedere sull'iPad. Accordi sono stati firmati con i più importanti editori del Nord America ed è stato fissato un costo massimo, $15 per ogni singola copia. Gli accordi non sono in esclusiva, ma sarà necessario che i governi prima o poi dicano la loro sul settore scuola per favorire contenuti aperti e standard utilizzabili su qualsiasi dispositivo e non contenuti proprietari. In questo caso, ad esempio, i libri dell'Apple potranno essere letti solo sull'iPad. Digital News. Anche se la notizia è positiva perché smuove un po' il mercato. Popolo di Internet, congresso americano 1-0, visto che la protesta della rete guidata dal blackout di Wikipedia USA, quindi in inglese, ha convinto molti politici o almeno messo qualche dubbio sull'opportunità di continuare a sostenere i provvedimenti di legge antipirateria che sono in discussione a Capitol Hill, che secondo gli oppositori metterebbero a rischio la libertà di espressione su Internet. Tutto dunque rimandato di qualche settimana. Potremmo concludere così questa vicenda, solo un capitolo. Quello che è successo questa settimana racconta di vecchi lobbisti, case discografiche, case del cinema, che lavorano negli uffici di Washington, schiacciati dalla nuova lobby digitale della rete. Digital News. La vicepresidente della Commissione europea responsabile dell'agenda digitale e le nuove tecnologie, Neelie Kroes, ha definito cattivo il disegno di legge antipirateria online che è in discussione appunto al congresso americano. In particolare parliamo del SOPA, Stop Online Piracy Act, ma ce n'è anche un altro che si chiama PIPA. Dice la Kroes: non abbiamo bisogno di una cattiva legislazione, ma piuttosto di proteggere i benefici di una rete aperta. Poche ore dopo la protesta su internet è stato chiuso, sarà una casualità, chi lo sa, è stato chiuso dall'FBI Mega Upload, che ha tra i suoi affiliati Mega Video, uno dei siti più utilizzati per scambiare e scaricare film pirata, lo sanno tutti. Il fondatore, che è noto in rete per chiamarsi Kim.com, è stato arrestato in Nuova Zelanda, verrà estradato quasi sicuramente. Mega Upload avrebbe creato danni per $500 miliardi e fruttato $175 milioni di guadagni illegali. Allora, dicevo, tutti sanno che questo era un sito per scaricare cose pirata. Poi sull'entità dei danni le case discografiche musicali esagerano un po' sempre. Vedremo poi se tutto ciò andrà a buon fine. Saluto Nereo Sciutto, che è amministratore delegato di Web Ranking. Bentornato a 2024, buongiorno. Buongiorno, grazie. La vostra società, in un minuto, fa una cosa che una volta era facile, adesso invece è molto complessa, cioè sostanzialmente voi aiutate persone o soprattutto aziende a farsi trovare sui motori di ricerca. Sì, esatto. Giusto? Ma è complicato questo. Ma in realtà è apparentemente semplice. Tutte le aziende dovrebbero, tutte le persone, quando ne abbiamo parlato l'ultima volta abbiamo accennato anche al mondo della politica. Tutto quello che qualcuno propone in rete, che sia un'opinione, un prodotto o un servizio, dovrebbe essere facilmente rintracciato, rintracciabile da parte dei motori di ricerca. Perché se no non esisti. Esatto. È una sorta di problema esistenziale. Il motore è il mediatore. Esatto, attraverso... o ci sei o non esisti. Ne parliamo dopo le notizie di GR24, anche al nostro numero verde 800 24 00 24, tra poco. 2024. Seconda parte fino alle 17 con 2024, io sono Enrico Pagliarini, a fianco a me c'è Nereo Sciutto, che è amministratore delegato di Web Ranking, che è una società tra le più autorevoli in Italia, ma non solo in Italia, perché Nereo viaggia un po' in tutto il mondo, e che si occupa di motori di ricerca, cioè, come abbiamo detto poco fa, aiuta soprattutto le aziende a farsi trovare sui motori di ricerca. Nereo, però vorrei dire subito una cosa che a volte qualcuno mi dice: allora, il motore di ricerca, Google in particolare, ma anche gli altri motori di ricerca, quello che fanno quando io faccio una ricerca e scrivo, oggi la parola ricerca la diremo un sacco di volte, quindi scusateci delle ripetizioni, quando io faccio una richiesta al motore di ricerca, quello che lui fa lo fa in modo neutrale, non è che, perché c'è la leggenda che se io pago vado più in alto nei risultati. Sì, è un luogo comune, o comunque una credenza popolare, è verosimile, perché noi siamo fondamentalmente italiani, quindi tendiamo a pensare sempre che ci sia dietro qualcosa, che il modello americano è un po' più cinico. Google stesso, ma anche gli altri motori di ricerca, dichiarano apertamente, fra le poche cose che dichiarano apertamente dei loro segreti industriali, di non influenzare i risultati cosiddetti organici, naturali, quelli che forniscono senza pagamento alcuno, anche in maniera totalmente indipendente da quello che accade all'interno del loro canale sponsorizzato, quello che esatto. È chiamato paid search. Esatto, quella è un'altra cosa. Esatto. Cioè, ci sono in alto, ma sono evidenziati, anche se non è che si vede benissimo a volte. Dipende dal periodo storico. In questo periodo però è un periodo in cui si vedono poco. Ma no, sono evidenziati. In passato ci sono state situazioni ben peggiori, anzi sì. Qualcuno è stato punito negli Stati Uniti a seguito di denunce perché li nascondeva un po' troppo. Sì, e quella è un'altra cosa, cioè ci sono dei link sponsorizzati e in quel caso sostanzialmente funziona in questo modo: se io vendo t-shirt posso legare a tutte le ricerche che vengono fatte sul motore di ricerca il mio marchio, e in quel caso quando uno va sul sito e scrive t-shirt, compro t-shirt, vendo t-shirt, esce magari la mia azienda perché io ho pagato la sponsorizzazione legata a quel, che è un po' il modo con cui Google fa soldi. È il principale modo con cui Google fa soldi e finanzia in larga parte tutte le altre cose che fa. Sì, sì. Ecco, anche sul funzionamento di Google e dei motori di ricerca, se avete domande potete chiamare il nostro numero verde 800 24 0024, oppure vi do anche le altre coordinate, 349 238 6666 sono i nostri messaggi. Se vi piace utilizzare l'email 2024@radio24.it oppure la nostra pagina Facebook dove leggiamo i vostri commenti. Abbiamo già citato un po' di volte Google, c'è solo Google? No, siamo in Italia, quindi se parliamo del nostro paese la percentuale di share, di ricerche che vengono compiute attraverso Google in maniera diretta o attraverso motori di ricerca che o portali che utilizzano la ricerca di Google, anche se spesso l'utente non se ne accorge perché vede intorno un'etichetta di un portale diverso, sono moltissime e ben superiori al 90% dello share complessivo. Questo perché in molti altri paesi, in primis gli Stati Uniti, dove la concorrenza di Microsoft si sta facendo sempre più agguerrita, era partito con un primo motore di ricerca che poi era stato battezzato come il portale MSN, poi è diventato Live, oggi è Bing, negli Stati Uniti fa numeri importanti, intorno al 15-16% oggi di share di ricerche, si è formata una partnership con Yahoo per riuscire a condividere un unico motore di ricerca concorrente a Google, unendo le forze delle due aziende, per cui fondamentalmente Google negli Stati Uniti non supera oggi, è lievemente in calo, il 65% di share. Quello che accade invece nei paesi non anglofoni, tipicamente Italia, Germania, Francia, è un minore impegno da parte dei competitor di Google verso il miglioramento della ricerca in lingue diverse dall'inglese. Quindi è un problema di lingua. Sì, diciamo che è un problema di investimenti. Gli investimenti linguistici sono molto difficili perché il motore di ricerca in inglese, essendo l'inglese più semplice dell'italiano e di altre lingue come il tedesco, è verosimile che siano più alti e quindi nella scelta industriale fatta dai competitor ci sia primariamente un interesse verso la cash cow. Sì, diciamo, in molti casi succede così, anche io parlo con delle startup che dicono io prima faccio le cose in inglese perché ho un mercato grande, cresco e poi posso pensare ad altri mercati. Verosimile, anzi corretto, lo dicono in tantissimi. Sì, sì. Paradossalmente quasi prima il cinese dell'inglese oggi, però sì, all'epoca era inglese e spagnolo. Certo, l'inglese. Senti, dicevamo prima che la principale fonte di guadagno di Google sono queste pubblicità che io leggo al marchio. Io posso chiedere a Google di, anche in modo automatico, di legare il mio marchio della mia azienda, del mio sito internet con delle parole chiave che vengono ricercate. Tutte le volte che un utente ricerca quelle parole chiave appare il link sponsorizzato al mio sito internet. Altri modi con cui fai soldi? Perché ne fa tanti. Sì, ne fa tantissimi. Parliamo di miliardi di dollari. Lo dicevi Enrico prima, il paradosso è che Google ha perso in borsa qualche giorno qua, ma ha perso a fronte di una crescita che non era alta come stimato. Google è una macchina da soldi nonostante la crisi. La principale fonte di guadagno sono questi risultati sponsorizzati che vengono inseriti all'interno del motore. Secondariamente Google si è posto il problema di rendere profittevole YouTube, che è il secondo motore di ricerca al mondo per numero di ricerche, lo sanno in pochissimi, fondamentalmente Google possiede il primo e il secondo motore. YouTube aveva un problema di sostenibilità del modello perché è un motore che costa tantissimo mantenere. Gli stessi fondatori di YouTube hanno dichiarato che se non fosse stato venduto a Google non sarebbero riusciti a mantenerlo in piedi per più di tanto, perché consuma molta banda e la banda costa. Su YouTube il tipo di, o su altri siti, il tipo di metrica utilizzata è quella di vendere della pubblicità, spesso in forma non necessariamente pubblicità testuale in risposta a una ricerca, ma anche pubblicità cosiddetta display, quindi i banner e i video pubblicitari o comunque formati più impattanti. Questi sono i due canali su cui Google fondamentalmente fa business diretto sulle proprie properties. Dopodiché c'è la pubblicità che fornisce all'interno dei siti terzi. Un qualsiasi, paradossalmente anche un piccolo blogger che parla di cucina, può iscriversi al sistema di Google e ricevere sul proprio sito pubblicità cosiddetta contestuale. Se io sto parlando di maccheroni, probabilmente riceverò all'interno di quella specifica pagina, quindi non su tutto il sito, ma su quella pagina, pubblicità di chi produce pasta o di ristoranti. Bene, adesso c'è la viabilità. Il nostro numero verde è 800-24-0024. Ci risentiamo tra un minuto e vorrei chiederti, detto in estrema sintesi, perché anche su questo potremmo fare 8 trasmissioni, come funziona il motore di ricerca? Non è facile, anche perché ci sono degli algoritmi molto complicati, ma penso che tu riuscirai a semplificare il tutto. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Le 16:16, vi ricordo che esisterà anche la versione podcast del nostro programma, o meglio, esistono già le vecchie puntate, potete scaricarle andando sul nostro sito internet www.radio24.it. E però vi consiglio di abbonarvi al nostro servizio podcast tramite un software come ad esempio iTunes, ma ce ne sono tantissimi, software che vi permettono di scaricare settimana dopo settimana anche in modo automatico il file MP3 della nostra trasmissione. Dunque, come funziona sostanzialmente un motore di ricerca, Nereo? Innanzitutto un motore di ricerca è in larga parte basato su un software e bisogna che, per quanto è voluto, bisogna che l'intervento umano sia ridotto a zero o al minimo, perché il numero dei siti web che un motore va a indicizzare è in crescita esplosiva nell'arco dell'ultimo decennio, per cui è diventato di una complessità tecnologica tale che pensare che ci sia un intervento umano nell'andare a mettere in ordine i risultati di un motore sia praticamente impossibile. Di base il motore invia un software che naviga il web, infatti questi software vengono chiamati spider, quindi ragni, che girano il web e seguono i link, quindi i collegamenti tra un sito e l'altro o i collegamenti interni alle pagine, e cercano di capire di cosa parlano tutte le singole pagine che trovano dentro i siti, quindi una quantità e una mole informativa incredibile, e riportano indietro queste informazioni in una sede centrale, nel caso di Google a Mountain View, che contiene tutte le informazioni relative ai siti del pianeta, perché Google, la versione italiana di Google è gestita comunque con lo stesso algoritmo che continua a girare nella sede centrale di Google, quindi la sede italiana non ha i propri server e un motore di ricerca più piccolino che gira in Italia. E la cosa più difficile, dopo aver recuperato una quantità di informazioni così ampia, a parte che è difficile sapere dove tenerla, perché serve, detto in maniera molto semplice, servono dei dischi estremamente capienti perché ci sono tantissime informazioni, vanno tutte organizzate in modo da consentire a chiunque di noi di poter avere il ranking, la classifica di quali sono, secondo lo specifico motore di ricerca, le risorse migliori, le pagine migliori relative a un mio bisogno. Allora, questa cosa è fatta fondamentalmente da algoritmi complicatissimi che sono il segreto industriale delle aziende che fanno i motori di ricerca. Esatto. E si vince se uno ha l'algoritmo più sofisticato, che poi tra l'altro è una cosa che non è fissa, cioè viene cambiato molto spesso, giusto? Esatto, in continuazione, anche perché il giochino è molto intelligente. Il motore combatte sia nei confronti degli altri motori nel fare un algoritmo sempre migliore, ma combatte, questa è una cosa che sanno in pochi, contro tutte quelle persone in giro per il mondo che cercano di capire come funziona l'algoritmo e fregarlo, per riuscire a posizionare in maniera artificiosa i propri siti nelle prime posizioni in maniera, possiamo definirlo, aggressiva o che sfrutta delle debolezze dell'algoritmo. Sì, perché diciamo che comunque esistono delle tecniche, che poi diciamo la vostra azienda è basata anche su questo know-how, delle tecniche per costruire i siti internet in modo che il motore di ricerca sia più agevolato a capire cosa c'è dentro, e quindi il nostro sito internet viene trovato molto più facilmente. Però tu dici, se uno è un po' troppo furbo e tenta di fregare il motore di ricerca nel corso delle settimane, dei mesi, viene affinato e capisce che uno lo sta per fregare. Esatto, perché una cosa è esplodere il naturale potenziale che c'è dentro ognuno dei siti che vengono pubblicati online, quindi far trovare correttamente il sito giusto al momento giusto per la ricerca giusta. Una cosa diversa è un comportamento, a volte anche lievemente fraudolento, di far trovare un sito di una marca per ricerche legate a una marca differente o per ricerche per le quali quel sito non merita di essere in classifica. Oppure ci sono tutto questo substrato di internet di cui si parla molto poco, che è quello legato ai casino online, alle scommesse online, o tutto il mondo di quello che viene fondamentalmente mai tracciato, che è il mondo del porno online, che ha una competizione, un livello di competizione altissima, e i contenuti sono sempre molto scarni, perché se ci pensate, tra 20, 30, 40 casinò online che hanno la stessa medesima offerta, non cambia nulla. La competizione lì è fatta su a spallate. Tra poco sentiamo i nostri primi ascoltatori, prima però volevo farti dire qualcosa su la quantità di server, di capacità di calcolo, di computing, come si dice, che ha non solo Google ma un po' tutti i motori di ricerca, perché tu dicevi questi sistemi devono essere in grado di leggere internet tutti i giorni. Forse immagino che, non so, sul sito del Sole 24 Ore, il motore Google, quante volte ci va in un giorno a vedere che cosa c'è? Ma probabilmente almeno un centinaio di volte al giorno, perché si accorge che è un sito che si aggiorna costantemente. Quindi va a vedere cosa c'è, perché se poi io faccio una ricerca deve essere in grado di restituirmi il risultato aggiornato. Esatto, molto probabilmente guarderà molto più spesso la home page per capire cosa viene caricato e non andrà in profondità, cercando di risparmiare risorse. Certo, ecco, a proposito di risorse, questa è una cosa bellissima, da un certo punto di vista anche drammatica. Quando io faccio una ricerca su internet, consumo dell'energia elettrica. Sì, e questa è una cosa che in pochi sanno. Ogni ricerca che, oppure nessuno ci pensa, ogni ricerca che noi facciamo, anche in questo momento davanti al nostro computer, ha un costo. Ha un costo in termini di capacità computazionale che Google o il motore di ricerca o Bing o chiunque altro deve spendere, quindi elettricità che in qualche maniera consuma per darmi il risultato. Una parte è legata a quanta elettricità ha speso per mandare in giro questi spider, raccogliere le informazioni, tenerle archiviate, metterle in ordine, quindi server e server che comunque girano e lavorano in continuazione. E una parte invece è legata al fatto che ho fatto una ricerca, ci deve essere comunque un algoritmo che gira su qualche macchina che consuma un po' di elettricità, un po' di potenza, e poi mi fornisce un risultato. E se sommiamo questo miliardo, sembra, di ricerche anche solo su Google che vengono fatte ogni giorno nel mondo, il dato è abbastanza affidabile, probabilmente stimato per difetto. Se sommiamo queste piccole quantità di energia, ci accorgiamo che quello che sembra essere un mondo virtuale legato non solo a Google ma a tutte le, prendete anche Facebook, a tutte le cose che facciamo su Facebook, anche il caricamento di un'immagine delle nostre vacanze su Facebook occupa uno spazio su un disco e richiede una capacità elaborativa e quindi dell'energia per essere archiviato, scaricato e visualizzato. Questo mondo che è apparentemente virtuale sta diventando estremamente fisico, perché se sommiamo questi piccoli mattoncini ci accorgiamo che queste sono aziende che hanno una parte molto rilevante nel consumo energetico planetario e quindi nella necessità di produrre energia da fonti che per gli Stati Uniti molto spesso sono il nucleare o il carbone. Sì, e infatti molte organizzazioni non governative, associazioni ambientaliste si stanno un po' lamentando, dicono: ragazzi, ma voi consumate un sacco di energia, quindi dovreste cominciare a diventare un po' più sensibili anche all'argomento green. Esatto, e questo è un cavallo di battaglia notevole, perché ad esempio Google ha investito tantissimo già in tempi passati per questioni di risparmio energetico, per riuscire a produrre energia e anche a consumarne meno. Quindi ha ottimizzato i propri server per riuscire a consumare il meno possibile, perché alla fine il green è molto spesso una scommessa che le aziende portano avanti a questi livelli perché lo fanno per risparmiare denaro. Per cui è una convenienza principalmente per loro. Cioè, non per farsi belli. Esatto. Dopodiché si diventa greenwashing quando qualcuno se ne fa bello. Che cosa vuol dire questo? Traduciamo un po'. Il greenwashing è un fenomeno che ha a che fare con un sacco di aziende che spesso, le .com non hanno questo problema, ma molte aziende tradizionali con business relativamente sporchi o industriali che utilizzano il green per pulirsi un po' la fedina. Cioè, il green l'anima. Significa facciamo degli investimenti in energie rinnovabili, facciamo risparmio energetico, ma per finta, giusto per dirlo e raccontarlo per in piccole giro. Percentuali, sì. Esatto, esatto. Sentiamo Tommaso che ci telefona da Ancona. Buongiorno Tommaso. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Prego. Allora, io comunque 10 anni che sto sulla rete, perché ho un portale grosso sull'acquariologia e comunque conosco bene come funziona il motore di ricerca, insomma abbiamo inserito circa 100.000 parole chiavi e siamo naturalmente primi per quello che abbiamo fatto in tutti questi anni. Dopodiché cosa mi vuole chiedere? Sì, la domanda comunque era che io leggo moltissimo quello che fanno i motori di ricerca. Ultimamente una notizia che circola è quella di un sito, si chiama Volunia, che praticamente dice all'interno, realizzato da un Sergio Marchionne, mi pare. Che beh, Sergio Marchionne è l'amministratore delegato della Fiat, direi che non si no, è... Massimiliano Marchionne. Allora, ecco, perfetto. Esatto. Praticamente hanno... Sì, Tommaso, adesso le rispondiamo. Lei dice, che cos'è questo Volunia? Allora, naturalmente noi già da un po' di tempo abbiamo contattato Marchionne, che ha collaborato, partecipato alla realizzazione dell'algoritmo di Google, famoso per questo motivo. E Marchionne ha detto, è stato molto, molto corretto, ha detto questo nuovo motore di ricerca, che non sappiamo ancora su che tipo di tecnologie sarà basato, partirà ufficialmente il 6 di febbraio, e io fino al 6 febbraio non posso, per vari motivi, per accordi anche con i propri investitori, parlare delle tecnologie che ci sono dietro. Allora noi abbiamo programmato questa puntata sui motori di ricerca, era già programmata, quindi ho detto, beh, Marco, ora ci risentiamo poi quando insomma ci sarà l'occasione, quindi vedremo che cosa succederà, se sarà effettivamente un motore competitivo, se riuscirà. Adesso devo dire che fare un motore competitivo non è mica facile, giusto? Perché abbiamo già detto che Google ha server sparsi in tutto il mondo, Bing ha server sparsi in tutto il mondo, quindi creare una cosa del genere con un investimento, che possiamo dirlo perché questa è una notizia che è già circolata, di 2 milioni di euro italiani, quindi questa è una buona notizia, però non è facile. No, tutt'altro. La mia personale opinione, guardando da fuori quello che sta girando intorno a tutti i motori di ricerca che sono nati negli anni e sono stati venduti sulla carta come concorrenti di Google, è che sappiamo, perché ci lavoriamo dentro, che è praticamente impossibile oggi riuscire a colmare un gap di tecnologia, di esperienza, soprattutto nella lotta allo spam che c'è sui motori di ricerca, in poco tempo, con investimenti così bassi. Io ho il dubbio, poi spero di essere smentito, che l'iniziativa legata a Volunia sia legata a un cosiddetto metamotore, probabilmente a un motore che aggrega risultati di reti sociali o motori di ricerca e li presenta semplicemente in una modalità diversa, e quindi offre un servizio dove io magari posso, questo è quello che immagino io, avere accesso più facile nella stessa posizione a tante cose che accadono da altre parti. Pensare di costruire oggi un motore di ricerca con 2 milioni di euro è praticamente impossibile, perché è un dato che può far riflettere, sembra da dati abbastanza affidabili che il 6% dei web server del pianeta, quindi il 6% del totale, compresi quelli che sono qua in radio e stanno girando per far funzionare i nostri sistemi, siano di proprietà di Google. E pensare, parliamo di dimensioni di aziende gigantesche. Sì. Marco Varone, presidente e responsabile della tecnologia di Expert System, bentornata 2024, Varone. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Dunque, voi vi occupate di semantica, di cose che hanno a che fare anche con i motori di ricerca. Due parole su quello che fate, che cos'è la semantica utilizzata in questo ambito su internet? Sì, noi ci occupiamo di tecnologia semantica, cioè di sviluppare una tecnologia che cerca di capire il significato, per questo semantica, del contenuto dei testi. Su internet buona parte delle informazioni, non tutte in realtà, perché ad esempio le mappe non sono testuali così come tanti altri servizi, comunque buona parte della conoscenza è in formato testuale, sia la conoscenza quella storica che è presente tanto tempo, sia la conoscenza più recente, la conoscenza dei social, blog, Facebook, Twitter e tutto il resto, e per cercare di capire cosa c'è scritto dentro e rendere perciò più semplice il recupero dell'informazione che si sta cercando, capire quello che c'è scritto è un grosso passo in avanti. La tecnologia semantica cerca di fare questo, può essere applicata a tutti i casi in cui ci sono informazioni contenute all'interno di testi, perciò non solo su internet ma anche all'interno delle aziende. Su internet l'esigenza è sempre più forte, è sempre più importante, perché mentre le aziende fanno sempre crescere il proprio patrimonio informativo di anno in anno, su internet, come dicevate prima, l'informazione cresce esponenzialmente, a livello anche di interazione tra i tantissimi centinaia di milioni e miliardi di utenti che adesso popolano le diverse reti sociali, la quantità di informazione cresce in maniera molto molto più rapida. Esatto. La tecnologia semantica cerca di ridurre la complessità di questa informazione testuale. Torneremo da Varone tra poco, poi sentiremo anche Giacomo che ci chiama da Ferrara. Adesso c'è un po' di pubblicità, riprendiamo tra poco. Il nostro numero verde 800 24 00 24. 2024. Vi ricordo che sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24 il file MP3 della nostra trasmissione. Riprendiamo e con noi in questa puntata Nereo Sciutto, che è amministratore delegato di Web Ranking. Prima di riprendere a parlare di motori di ricerca, vi cito un emendamento che è stato presentato alla Camera dalla Lega Nord, da un deputato che si chiama Fava, di cui in rete stanno già parlando e stanno dicendo delle cose non proprio positive, perché qualcuno dice che questo emendamento preveda che qualunque soggetto interessato, quindi non solo l'autorità giudiziaria, possa chiedere a un fornitore di servizi internet di rimuovere contenuti pubblicati online e ritenuti illeciti dal soggetto richiedente. Allora, a parte che questa cosa probabilmente va contro una recente sentenza della Corte Europea di Giustizia che dice una cosa un po' diversa, vedremo come andrà a finire. Oltre al fatto che la Lega sta nella minoranza, quindi non so quante chance abbia questo emendamento, però sicuramente non è una cosa positiva. Qua c'è un problema di ignoranza dei nostri politici, che non comprendono che cosa sta accadendo nella rete. So, abbiamo visto che la rete americana si è fermata di fatto per protestare contro un paio di provvedimenti che sono in discussione al Senato e alla Camera dei Deputati americana, dove comunque la competenza su questi temi è più elevata, e uno salta fuori con un emendamento di questo genere. Che cosa dobbiamo fare? Dunque, sentiamo Giacomo che ci telefona da Ferrara. Buongiorno Giacomo. Buongiorno, ciao Enrico. Io volevo chiedervi, rispetto all'evoluzione dei motori di ricerca di Google per il web che verrà, o in verità quello che c'è già, quindi web personalizzato, ad esempio quando io faccio una ricerca su Google sarà diversa, anche usando la stessa parola, della ricerca che potresti fare te o potreste fare il vostro ospite, perché so che è influenzata anche da precedenti ricerche, i siti che visitiamo di più, anche solo gli amici che abbiamo su Facebook cosa guardano. Ecco, quindi capire un po' l'evoluzione del motore di ricerca, se sarà importante come ora nel web, diciamo 3.0, invece avranno più importanza altri sistemi di ricerca o, per così dire, di indicazione, di segnalazione di siti o prodotti o servizi. Grazie Giacomo, la domanda è ottima. Penso che Alberto, che ci chiama da Modena, voglia intervenire su un tema che è forse molto vicino a quello che ci proponeva Giacomo. Alberto, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno e un saluto a tutti. Io volevo chiedere appunto a Nereo, ed è anche un po' collegato all'intervento precedente, volevo chiedere a Nereo Sciutto come vede questa evoluzione di Google, che ha preso una svolta social con questa introduzione di Google Plus. È naturale evoluzione del motore oppure tenta di fare un po' il verso a Facebook e altri social network? Ottima domanda. Allora, Nereo, spieghiamo cosa sta accadendo. Allora, quando io vado a fare una ricerca su un sito internet, scrivo casa e il motore di ricerca mi propone una serie di link collegati a siti dove si parla di case, ok? Si spera, sì. Si spera, esatto. Cosa significa l'evoluzione social verso la personalizzazione della ricerca? Cosa sta accadendo? È che Google non ce la fa più, come tutti gli altri motori di ricerca, a fidarsi solo di quello che trova dentro le pagine. I siti sono troppi, le pagine sono troppe, e quando faccio una ricerca ha bisogno di ottenere altre informazioni. È più o meno quello che è stato detto nel corso del primo intervento. Google comincia a chiedere alle reti sociali, le mie reti sociali, le reti sociali di ognuno di noi, qualcosa che riesca a influenzare maggiormente il risultato che vedo, per cui in effetti è un po' una missione di impossibilità di riuscire a continuare semplicemente guardando delle pagine, quindi chiede aiuto alle persone. Questa è la prima cosa veramente bella. Quello che dicevamo prima era che l'algoritmo deve funzionare in maniera del tutto automatica, e si sta accorgendo che oggi non basta, c'è bisogno di sapere anche dalle persone che cosa queste persone preferiscono e cosa prediligono. Quindi sta andando a analizzare che cosa preferiscono, che cosa hanno condiviso, che altre pagine sono interessanti per i miei amici nelle mie reti sociali. Qua scatta il primo problema, che Google è proprietario di un social network, Google Plus, che ha creato fondamentalmente per cercare di competere sul terreno di Facebook, e che, a differenza di quello che diceva il primo ascoltatore che ha chiamato, Facebook e anche Twitter, che sono le due principali reti sociali a livello di utilizzo planetario, hanno reso nel tempo sempre più difficile a Google di capire cosa accadeva al loro interno. In termini pratici, sono sempre più invisibili a Google, perché o le informazioni sono sotto password o attraverso accordi che prima c'erano e oggi non ci sono più, non condividono più col motore di ricerca quello che le persone fanno al loro interno. Cioè, quindi, se Google va a vedere le pagine del Sole 24 Ore, quelle le può leggere e capirle benissimo. Però, visto che dovrebbe diventare mio amico su Facebook per capire quello che io scrivo su Facebook. Sì, soprattutto se tu hai una rete dove comunichi un gruppo chiuso all'interno del sistema e Facebook non fa nulla per passare questo dato all'esterno. È quello che è successo con Twitter, che prima passava questa informazione all'esterno, i tweet, in maniera semi-automatica a Google, e oggi non lo fa più. Ok, e visto che tutte queste informazioni sono importanti, Google dice, io le vorrei vedere ste robe. Esatto. Non riuscendo a vedere da loro, si è creato un proprio social network che oggi è sia attore principale nel mercato della competizione con i social network, quindi Facebook contro Google Plus. Allo stesso tempo è un'arma in più che Google sta utilizzando per raccogliere questo genere di informazioni attraverso un proprio sistema, in modo che questo comportamento delle persone sia sotto il suo controllo e lui possa favorirlo. Quello che sta accadendo è anche che il motore di ricerca, essendo molto forte, questa è una cosa molto sottile, sta aiutando lo sviluppo di Google Plus, perché sta dicendo negli Stati Uniti, dove questa cosa è già iniziata, sta dicendo: io riesco a darti risultati migliori se tu porti i tuoi amici su Google Plus, se tu ti iscrivi su Google Plus, crei, cloni la tua rete sociale che magari hai già su Facebook, la porti anche su Google Plus, così io ti faccio funzionare meglio il motore. Quindi grazie allo strappo ti personalizzo la ricerca. Ti personalizzo la ricerca. Cosa che a volte, quello che sta succedendo, è che è forse fin troppo personalizzata. È molto interessante tutto ciò. Volevo chiedere a Marco Varone, intanto se volevi fare un commento su questo tema, però te ne volevo proporre un altro, che è quello legato agli smartphone, perché se è vero che buona parte del traffico internet si sta spostando verso la mobilità, immagino che buona parte delle ricerche che noi facciamo si stanno spostando in mobilità, e sono ricerche che noi facciamo su uno smartphone, dove immagino si debba pensare a qualche cosa di nuovo per fare il motore di ricerca. Una lunga lista di link poco usabile su uno smartphone. Sì, è assolutamente vero. Le ultime statistiche dicono che la crescita del traffico generato, le ricerche generate dagli smartphone crescono enormemente più velocemente rispetto al numero di ricerche fatte sul normale computer da tavolo. Il problema base è che mentre sono sul computer e sto navigando e faccio una ricerca, anche se mi arrivano alcuni link da aprire e cliccare, su un computer lo faccio molto velocemente. Lo schermo è grande, clicco, ho una linea DSL tipicamente molto veloce, riesco facilmente a vedere se è quello che mi interessa nel primo link o nel secondo o nel terzo. Sul telefonino ho molti più problemi. Lo schermo è piccolo e anche se ha una risoluzione alta rimane sempre piccolo. La banda c'è, non c'è, soprattutto in Italia purtroppo la banda mobile è molto ballerina e perciò è molto complicato, lento e costoso affidarsi allo stesso paradigma della ricerca sul computer da tavolo. Quello che perciò si sta facendo, ed è un campo di applicazione molto importante, molto caldo per le nostre tecnologie, la tecnologia semantica, è quello di cercare di risolvere una buona parte, e non tutte le ricerche possono essere gestite in questo modo, ma una buona parte delle ricerche non nel modo tradizionale, restituendo un elenco di 10 link e da poi paginare 10 link alla volta, ma di cercare di dare direttamente una risposta o comunque una bozza di risposta, perciò non più documenti da aprire o pagine da aprire, ma risposte alle ricerche che vengono fatte. Come si fa a fare questo? Si chiede all'utente di formulare non tanto una ricerca molto schematica, come tipica del motore di ricerca, cioè 2 o 3 parole chiave di seguito, ma si cerca di suggerire all'utente di effettuare una vera e propria richiesta, un po' come la si farebbe a una persona, una domanda. Invece che dire ristoranti Milano giapponese, ok, cercare di allargare un po', rendere in modo un po' più naturale e consentire al sistema di non restituire semplicemente tanti link, ma magari già un piccolo elenco già filtrato o, quando si chiede invece un'informazione più puntuale, la risposta. È un po' la stessa direzione in cui si sta muovendo Siri, che è una cosa che in Italia non è ancora comunissima, è l'assistente, diciamo così, digitale all'interno del nuovo iPhone, in Italia deve ancora arrivare, che fra le tante funzionalità cerca di rendere possibili delle ricerche fatte sul motore di ricerca in linguaggio naturale, cioè mi esprimo facendo una domanda come se la facesse una persona e il sistema cerca di interpretarla al meglio. Sì. Diciamo che Siri è arrivato non ancora in italiano, esatto, sì, in lingua italiana, se uno lo vuole usare, anche se ogni tanto fa un po' cilecca, in lingua inglese o in qualche altra lingua. Varone, visto che voi avete questa tecnologia che viene utilizzata da varie società con cui collaborate, uno potrebbe dire, ma perché non fate un motore di ricerca? Sarebbe una bellissima cosa e ci piacerebbe anche farlo in realtà, perché per una larga parte delle ricerche si potrebbero sicuramente ottenere risultati migliori. Perché non la facciamo un po'? È già stato detto prima, in realtà la mole degli investimenti necessari è enorme. E un po' anche perché c'è un altro aspetto che è misconosciuto dalla maggior parte delle persone che utilizzano Google o gli altri motori di ricerca, è che in realtà la massa critica di questi motori di ricerca ormai è tale che tutti quelli che lo utilizzano, in realtà senza saperlo, lavorano gratuitamente per Google o per gli altri. Perché? Perché nel momento in cui io faccio una ricerca e clicco sul mio risultato, io comunico un'informazione preziosissima a Google, all'altro motore di ricerca, per dirgli guarda che quel risultato per quella ricerca è sicuramente molto rilevante. Avendo 1 miliardo anche più di ricerche al giorno, Google è grado di raccogliere e di far lavorare in modo gratuito centinaia di milioni di persone in tutto il globo per avere sempre un vantaggio competitivo rispetto agli altri. Perciò l'informazione su che cosa cliccate in risposta a una certa ricerca è uno degli elementi chiave con cui Google fa il ranking, cioè ordina i risultati, e che deriva e dà un valore così alto perché Google ha un numero di utenti illimitato, altissimo, elevatissimo. Perciò buona parte delle ricerche su motore di ricerca, Google in particolare, funzionano molto bene, anche perché tutte le persone che lo usano gratuitamente lavorano per lui. Perciò non è del tutto corretto dire che su Google, sugli altri motori di ricerca, non c'è un fattore umano. C'è, ed è importantissimo. Semplicemente non sono i dipendenti di Google che a mano sistemano i risultati, come dicono certe leggende, ma siamo noi, utenti, che tutti i giorni clicchiamo e diciamo a Google, attenzione, che se ho cercato ristoranti giapponesi a Milano, il risultato più cliccato è questo. Aspetta che lo spostiamo verso l'alto. Questa enorme massa critica dà un valore tale a questi grandi competitor che fanno concorrenza, oltre a tutti gli altri fattori, diventa veramente difficile. E rispetto a quello che diceva poco fa Nereo Sciutto, visto che tutte le volte che facciamo un click a noi sembra di non consumare nulla, ma in realtà consumiamo dell'energia che certo non paghiamo noi, ma questo è un consumo anche legato al famoso effetto serra, potremmo cercare di ridurre. Io ad esempio una cosa che non sopporto, lo dico, quelli che invece tu dici vai sul sito della Fiat, che è evidente che è fiat.com, vanno su Google e mettono Fiat. Spreco di tempo, spreco di risorse e spreco anche di energie. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. L'ultima parte di 2024, sentiamo Massimo che ci chiama da Mirandola. Benvenuto Massimo, buongiorno. Buonasera. Poco più di un anno fa è successo che facendo una ricerca su Google, qualsiasi sito che visualizzato dava la stringa sito compreso di virus, contenente virus, persino quello di Google. Allora, visto che questo inconveniente era durato quasi una ventina d'ore, mi chiedevo quanti sono i programmatori che si dedicano al codice e come è stato possibile. E io poi ho chiesto e mi è stato detto che era successo a causa di una virgoletta mancante nel codice. Io non ne ho mai sentito parlare di questo caso, ma effettivamente insomma, se ce lo cita sarà successo. L'algoritmo può sbagliare. C'è stato un momento di quello che può essere considerato un falso positivo, nel senso che l'algoritmo di Google verifica anche e dà un aiuto ai navigatori. Spiego meglio cosa significa quello che è appena stato detto. Elencando sotto i risultati della ricerca i siti sui quali ha trovato dei virus o degli script installati in modo da convincere le persone a selezionare più facilmente i siti sicuri. Una volta una di queste segnalazioni ha occupato quasi tutte le ricerche, ma è stato un problema di programmazione che io personalmente non mi sono informato cosa sia stato dovuto, però faccio un ingegnere informatico ogni tanto e capisco che una virgoletta, questo è quello che è sempre successo, può causare problemi. Comunque, alla domanda quanti sono i programmatori, sono alcune migliaia di sicuro. Sono diverse migliaia distribuiti in tutto il pianeta. Stefano da Conegliano, benvenuto. Grazie. Prego. Buongiorno Enrico, buongiorno Nereo. La domanda che ho anticipato al centralino è questa, e che mi pongo anche spesso perché mi occupo di marketing online con alcune aziende che seguo. E se un domani il motore di ricerca fosse Facebook? Cioè, premesso che io non sono molto a favore di Facebook, però sappiamo tutti che oggi Google può fare delle attività georeferenziate, quindi le sue ricerche si basano sugli IP delle macchine. Quello che invece Facebook può fare sono delle ricerche basate anche sulle informazioni che ogni profilo dà. E con l'inserimento di timeline cosa sta cercando di fare? Sta acquisendo anche informazioni legate al passato di ogni profilo. Quindi ognuno di noi oggi conosce internet perché si immagina Google, ci si mette davanti e scrive casa, come dicevate prima. Ma se le informazioni che domani Facebook potesse avere su di me fossero talmente tante, così dettagliate, da non portarmi più a scrivere casa su Google, ma di riuscire ad anticipare quelli che sono i miei spostamenti con Facebook Places e tutti gli altri tool che ha adottato, in uno scenario futuro, non tanto lontano, probabilmente Facebook potrebbe anche sostituirsi a quello che è Google oggi e quindi al concetto di internet che conosciamo. Probabilmente sì. Grazie Stefano. Bella domanda. Io ho un parere squisitamente personale. Vabbè, i pareri sono sempre personali. Esatto, da tecnico. Facebook da sempre sta cercando di, come poi succede per Google nei confronti di Facebook, di entrare nelle business del principale concorrente. In realtà fanno due cose completamente diverse, diventano concorrenti nel mercato pubblicitario, nella raccolta pubblicitaria. Ognuno dei due vuole diventare leader nel numero di accessi, quindi nel mercato pubblicitario, che è quello che paga il conto economico di questi server. Delle due, io sono convinto che sia molto più facile per Google costruire un social network, cosa che ha fatto più volte, ma che a livello di complessità tecnologica è molto più facile rispetto al fatto che Facebook domani si metta ad analizzare questa mole infinita di dati per costruire un motore di ricerca che funziona. Dei due sono convinto che Facebook l'avrebbe già fatto, di uscire sul mercato con un motore di ricerca funzionante. Ritengo più verosimile che Facebook acquisti o acquisisca qualcosa di già funzionante. Più informazioni mette, separato di timeline, geolocalizzazione, di interessi, persone, collegamenti, più informazioni vanno analizzate, più è difficile poi alla fine stabilire questa famosa classifica. E sono convinto che sia un problema squisitamente tecnologico. Facebook, se fosse in grado di farlo, l'avrebbe già fatto, perché è la killer application, è riuscire ad andare a competere verso Google in casa sua. Allora, su Facebook Lionello ha scritto una domanda che mi sembra interessante. Dice: ma perché, adesso la traduco la domanda, dice, ma perché la Apple non ha il motore di ricerca? La domanda originale era: ma ad Apple non converrebbe comprarsi Yahoo? Secondo me mica tanto, anche perché poi Yahoo oggi utilizza la tecnologia di ricerca di Bing della Microsoft. E però perché la Apple non ha motore di ricerca? No. Sì, chi cioè, lo sa? Sì, lo dicevamo all'inizio, il motore di ricerca è una cash cow, è una commodity che... Traduci? È un'applicazione che è in grado di generare moltissimo denaro. Perfetto. Ed è una cosa che è strettamente necessaria al funzionamento stesso della rete. Perché mentre le social network, è per quanto oggi tutti lo usino, la maggior parte delle persone lo usino con soddisfazione, è un di più. Si può immaginare una internet senza Facebook? Esatto, il motore di ricerca è necessario. Esatto, una internet senza un motore di ricerca, senza un Google, non funziona più. Per cui è vista come una cosa che c'è, in una qualche forma è destinata a rimanere e produrrà un sacco di soldi. Oggi, come vi dicevo, la mia personale opinione, vedendo anche come funzionano questi algoritmi, è che il ritardo di un decennio nei confronti dello sviluppo di certi motori di ricerca, pensate ai soldi che Microsoft da anni mette per competere verso Google con scarso successo, figuriamoci oggi pensare di costruirne uno, come dicevamo nel caso di Facebook di prima, su una base dati che è ancora più complicata, quindi con un ulteriore livello di complessità. Cioè, diciamo, l'Apple potrebbe comprarsi Yandex russo, sì, che esiste, Baidu cinese, ma non glielo lascerebbero comprare. Esatto, perché è un po' governativo e quindi un po' roba loro. Però sì, l'idea è quella di comprare almeno una tecnologia che già esiste per risparmiare un po' di tempo. Sì. Abbiamo gli ultimi minuti, allora volevo dare un breve sguardo sul futuro. Varone, l'obiettivo, grazie anche alle tecnologie semantiche che voi studiate, ma non solo voi, insomma un po' in tutto il mondo, anche naturalmente Google e tutti i motori di ricerca, è quello di fare un motore di ricerca che possiamo immaginare come interagisce con noi nei prossimi anni? Ma l'obiettivo è quello di restituire sempre più rapidamente la risposta che si sta cercando e non una lista da dove scorrere ad analizzare. Non solo, quello di capire meglio quello che sta chiedendo la persona, sta facendo una ricerca di un prodotto per comprarlo, sta cercando un posto per recarsi a visitarlo, sta cercando un'azienda perché sta cercando un certo prodotto, cioè riuscire a capire quali sono le intenzioni delle persone che hanno fatto la ricerca e riuscire perciò a non dare un elenco o una risposta, un insieme di risposte generiche, ma molto più vicine a quello che sta nella mente delle persone. Sembra quasi un obiettivo irraggiungibile, perché vorrebbe dire leggere nella mente delle persone che stanno scrivendo la ricerca, ma in realtà le cose che state dette prima sono già dei fattori che vanno in questa direzione, e dalle informazioni che ci sono su Facebook, sulla parte social, dalle ricerche fatte precedentemente, da dove sono, cioè da dove sto scrivendo. Si tenta di raggiungere questo obiettivo. Bene, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Marco Varone, presidente di Expert System. A presto, buon lavoro. Grazie. E anche Nereo Sciutto, che è amministratore delegato di Web Ranking, che speriamo presto di avere di nuovo nel nostro studio per parlare di, anche Varone nel nostro studio, per parlare di motori di ricerca, perché l'argomento è interessantissimo. Oggi, ad esempio, non abbiamo affrontato un'altra cosa, che è problemi per la democrazia. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Nereo, a presto. A presto. Grazie a Pietro Lacorte, che è il nostro tecnico di oggi. Tra poco il GR. 2024.